a concretizzare non solo la data di Catania, ma un piccolo tour, e ci vede qua oggi con voi a Messina. E sei stato contento della serata di oggi? Hai visto come ha risposto la gente? Di solito alle vostre serate, alle vostre proiezioni c'è più gente o meno? O è importante quanta gente c'è? O è importante lasciare un segno nella città in cui si va a portare il film? Noi diciamo sempre che l'importante è la qualità delle serate che si organizzano in giro, e in questo anno di vita di Brucia Ancora Dentro noi abbiamo attraversato spazi sociali storici, baretti di quartiere, cinema, arci, centri culturali di natura molto diversa, per cui ci piace confrontarci con situazioni che hanno storie, pubblici anche molto diversi tra loro. Stasera Messina, ospiti della Casa del Popolo, sicuramente siamo in una di quelle situazioni che noi definiamo intime, per dimensione, ma che restituiscono, per quello che ho potuto assaporare io, il valore di una comunità radicata sul territorio, anche trasversale, per quello che si è riuscito a vedere. Cioè c'erano bambini, c'erano adulti, diciamo, diversamente giovani e giovani. Questo è un altro degli obiettivi che ci si proponeva quando si è concepita l'idea del film, ossia di parlare a un pubblico trasversale, per cui direi che la serata di stasera ha rispecchiato un po' in pieno anche questa aspettativa, per cui siamo molto soddisfatti. Diciamo che il film stesso è strutturato per essere trasversale, per essere visto e assorbito, empatizzato da un pubblico più che variegato. Sì, noi fin dal suo concepimento ci siamo dati l'obiettivo, quello di riuscire a parlare sia a chi aveva vissuto storicamente quei fatti, e quindi di avere un prodotto che fosse valido politicamente per le persone che hanno vissuto sulla loro pelle i fatti della Notte Nera, ma sia un prodotto che fosse valido per chi innanzitutto non ha conosciuto Dax, non ha conosciuto gli anni di Milano tra il 2003, molto distanti da questa data, esatto. Infatti. E poi però non solo, diciamo, una differenza anagrafica, ma anche una differenza di cultura politica. Cioè il film si pone come obiettivo quello di dialogare con delle comunità che magari non per forza di cose sono militanti, che condividono con noi un background politico di antifascismo militante, ma che attraverso il film possano respirare un po' del nostro punto di vista su quello che è oggi il senso dell'antifascismo. Quello che ho notato io è che si racconta molto della collettivizzazione di un sentimento, di un'emozione nel film, e allo stesso modo il film collettivizza un non sentimento, un'indole che abbiamo un po' tutti nella società civile, cioè quello di andare contro l'ingiustizia, che possono essere delle coltellate alla mezzanotte in una via di città. E appunto è stato quel sentimento a portare tante persone in piazza, e sarà quel sentimento a farle stringere attorno a questa storia per quanto più verrà diffuso il film. È la vostra speranza? Sì, sì, sì, questo è sicuramente la nostra speranza, ma è anche un dato di fatto, diciamo, che va dato atto, e in questo indubbiamente il lavoro più importante è stato svolto nel corso di questi 20 anni, soprattutto dai compagni e dalle compagne di Dax, che fin dai primissimi giorni dopo il 16 marzo 2003 hanno deciso consapevolmente che quella storia doveva essere una storia di tutta la città e non solo. Quindi non chiudere all'interno del perimetro di un'area politica, di una comunità politica, di uno spazio sociale, quel vissuto e tutto ciò che ne derivava, ma trasformarlo in patrimonio collettivo. Da lì in poi è stato un percorso lungo 20 anni, che ha sempre più allargato però questa comunità a cui il patrimonio si è rivolto fino a raggiungere tutta Europa. Volevamo chiederti quando e come nasce l'idea di fare questo film. L'idea del film nasce tendenzialmente a cavallo tra il 19° e il 20° anniversario dell'omicidio di Dax, quando i compagni e le compagne dell'associazione si sono rivolti a noi monzesi, che avevamo già alle spalle un'esperienza di cinema militante con la realizzazione di Uragano negli occhi, che è un film che parla di tutt'altro, chiedendoci di aggiornare il video storico che è circolato per a partire dal 2004 sulla Notte Nera, in modo da avere uno strumento da presentare in occasione del ventennale del 2003, nelle giornate di marzo 2003. Per cui tendenzialmente nella primavera del 2022 ci si è detti: come possiamo aggiornare questo video? Il nostro stimolo è stato quello di non compiere un semplice aggiornamento, ma costruire un vero e proprio lavoro nuovo, che da lì prendesse le mosse, ma che esplorasse tantissime altre questioni legate a questi 20 anni di memoria e lotta. Per cui abbiamo cominciato a intraprendere tutto il percorso di interviste, abbiamo cominciato a raccogliere nuovi materiali d'archivio, abbiamo cominciato anche a concepire l'idea che non fosse soltanto un film, ma ci fosse il libretto, ci fossero degli extra. E poi il 16 marzo del 2023 è avvenuta questa prima grande presentazione in piazza in via Brioschi. Molto bello, tutto molto bello. E vabbè, me ne tengo per dopo. Ci sentiamo un pezzo e ti dico quello che ho provato vedendo il film. No matter where we fears, we must fear the moment of truth, baby. They say it's lonely at the top in whatever you do. You always gotta watch motherfuckers around you. Nobody's invincible, no plan is foolproof. We all must meet our moment of truth. The same shiesty cats that you hang with and do your thing with could set you up and wet you up. Nigga, peep the language, it's universal. You play with fire, it may hurt you or burn you. Lessons are blessings you should learn through, let's face facts. Although MCs lays tracks, it doesn't mean behind the scenes there ain't no dirt to trace back. That goes for all of us, there ain't nobody to trust. It's like sabotage, it's got me ready to bust. But I can't jeopardize what I've done up to this point, so I'ma get more guys to help me run the whole joint. Cultivate, multiply, motivate, or else we'll die. You know I'll be the master of the who, what, where, and why. See, when you're shining, some chumps will wanna dull ya. Always selfish, jealous punks will wanna pull ya down, just like some shellfish in a bucket, cause they love it to see your ass squirm like a worm. But just as you receive what is coming to you, everybody else is gonna get this too. I ain't no saint, therefore I cannot dispute that everyone must meet their moment of truth. Actions have reactions, don't be quick to judge. You may not know the hardships people don't speak of. It's best to step back and observe with coup, for we all must meet our moment of truth. Sometimes you gotta dig deep. When problems come near, don't fear. Things get severe for everybody, everywhere. Why do bad things happen to good people? Seems that life is just a constant war between good and evil. The situation that I'm facing is mad amazing. To think such problems can arise from minor confrontations. Now I'm contemplating in my bedroom pacing. Dark clouds over my head, my heart's racing. Suicide? Nah, I'm not a foolish guy. Don't even feel like drinking or even getting high, cause all that's gonna do really is accelerate the anxieties that I wish I could alleviate. But wait, I've been through a whole lot of other shit before, so I ought to be able to withstand some more. But I'm sweating though, my eyes are turning red, and yo, I'm ready to lose my mind, but instead I use my mind. I put down the knife and take the bullets out my nine. My only crime was that I'm too damn kind, and now some scandalous motherfuckers wanna take what's mine. But they can't take the respect that I've earned in my lifetime, and you know they'll never stop the furious force of my rhymes. So like they say, every dog has its day, and like they say, God works in a mysterious way. So I pray, remembering the days of my youth, as I prepare to meet my moment of truth. Truth. Yo, I got one lyric pointed at your head for start. Another one is pointed at your weak ass heart. Now if I pull the trigger on these fully loaded lines, you're gonna wish I would've pulled a black nine. I'm Mac Dimes, crack the spines of the fake gangsters. Yeah, the biting trifling niggas and the studio pranksters. Yo, looking at the situation plainly, will you remain G or will you be looked upon strangely? I reign as the articulator with the greater data, revolving on a task and much doper than my last jam. While others struggle to juggle tricky metaphors, I explore more to expose the core. A lot of MCs act stupid to me, and we have yet to see if they can match our longevity. But anyway, it's just another day, another fake jack I slay with my spectacular rap display. Styles smooth but rugged, you can't push or shove it. You dig it and you dug it, cause like money you love it. The king of monotone with my own throne, righteously violent prone. My words bring winds like cyclones, storming your hideout, blocking out your sunlight. Your image and your business were truly not done right. Throw up your heel now, divine saviors. You got no hand skills, there's no security to save you. No pager, no celly, no drop top Benzie. I came to bring your phony hip hop to an end. My art of war will leave you sore from the abuse, cause you must meet your moment of truth. They say it's lonely at the top in whatever you do. You always gotta watch motherfuckers around you. No one is untouchable, no man is bulletproof. We all must meet our moment of truth. Guru e DJ Premier ci accompagnano nella seconda parte di trasmissione, nel secondo cluster di trasmissione, e abbiamo parlato di emozioni collettive. Io posso dire le mie emozioni provate durante la visione del documentario, del docufilm, e posso dire che la prima mezz'ora l'ho passata piangendo, e poi grazie a climax narrativi effettivi mi sono ripreso, le endorfine sono state rilasciate e cioè penso di aver assorbito al meglio il film. Era una storia che non conoscevo, è una storia che in molti non conoscono, e credi sia questo il modo giusto, o comunque sia uno dei modi giusti per raccontare questa storia? Sicuramente sì, nel senso che è una storia che viene raccontata innanzitutto da un punto di vista collettivo, e questo era l'unico meccanismo che ci sembrava legittimo mettere in atto. Quando ci è stato chiesto di farlo, sapevamo di avere una responsabilità non indifferente per raccontare la storia di un omicidio politico in una città di Milano dove sussistono anche delle pesanti lacerazioni tra aree di movimento molto diverse. Per noi è stato da subito chiaro che bisognava dare parola a tutti e a tutte, lasciando la possibilità a tutti di esprimere insomma il proprio punto di vista su quella vicenda. Però oltre che essere un punto di vista nostro, è anche stato il punto di vista e l'approccio con cui i compagni e le compagne di Dax hanno sempre voluto che questa storia venisse raccontata e trasmessa e agita poi insomma nelle sue implicazioni nel presente. La cosa bella e importante che rende probabilmente la vicenda di Dax abbastanza unica non solo in Italia è che ancora oggi l'Assemblea per la costruzione delle giornate di Dax è un'arena che ospita tutti e tutte. Aperta, cioè, a 360 gradi. Aperta a 360 gradi e partecipata da realtà che provengono da aree di movimento molto diverse tra loro. Tra l'altro è una cosa che ho apprezzato anche nella costruzione del film, che offre una lettura a più livelli. Cioè questa apertura si vede dal fatto che questo film lo apprezza chi conosce la storia, chi non ha minimamente idea di cosa sia successo, e questo devo dire è un grande pregio che ho riscontrato nella visione oggi, quindi complimenti. Grazie, io aggiungo che era interessante non offrire esclusivamente una prospettiva militante in questa vicenda, perché sarebbe stato anche un modo per impoverirla, cioè ridurla a qualcosa di scontato, tra virgolette. Etizzante quasi. Esatto. E trovavamo molto più interessante partire da Rozzano, ad esempio, il paese dove Dax è nato e cresciuto, dai suoi amici, dalla sua famiglia, che poi magari nel corso del tempo sono stati anche i suoi compagni e le sue compagne, e sicuramente la famiglia da cui proviene è una famiglia che ha una tradizione che si avvicina molto, insomma, a quella dell'antifascismo e della lotta in generale. Però crediamo che parlare di rapporti affettivi, di rapporti familiari, permetta anche la visione a un pubblico magari non esclusivamente interessato a una vicenda. Ma secondo me non è neanche un metodo narrativo, nel senso, Dax è quello e per quello, perché c'è mamma Rosa, perché ci sono i suoi amici di scuola. Non è come dice all'inizio del film, che mi ha sorpreso subito che si era avvicinato in tenerissima età agli ambienti di destra, poi si è subito uscito, e fa capire che tipo di ragazzo era, perché voleva capire, voleva conoscere, voleva appartenere anche a qualcosa, appartenere a un movimento, appartenere a qualcosa di con più persone. Come dire, non era un lupo solitario, non era un cane sciolto. Come? Secondo me non è solo la storia di Dax, è stata resa proprio la storia di un ragazzo come tanti di periferia, assolutamente. Sì, credo che questa sia una chiave di lettura corretta. Noi non abbiamo dovuto forzare nulla, abbiamo semplicemente dato parola. Nel film non esiste una voce narrante, nel film non esistono interpretazioni, e come dice spesso Brega durante le presentazioni, ed è vero, perché qui possiamo testimoniarlo noi che abbiamo sbobinato tutte le interviste, ciascun interlocutore alla fine alle domande rispondeva nello stesso modo. A noi è stato semplicemente il compito di selezionare chi diceva le cose meglio rispetto ad altri, però è una vicenda che ha dei contorni e una base condivisa a 360 gradi, ecco, questo è bello. Incredibile la figura di mamma Rosa, veramente incredibile, e quando ha detto io non sono un'oratrice però sono salita sullo scranno e ho parlato per mezz'ora, io ho detto, cioè ho pensato nella mia testa, io faccio radio, ma se mi fosse successa una cosa del genere non avrei parlato, non sarei riuscito a spiccicare una parola, perché in quel momento, vedendo il film, non mi stava venendo, ora non mi mancano le parole, ed è, cioè, che a me manchino le parole è una cosa grave. Però, cioè, tu l'hai conosciuta mamma Rosa? Sì, io l'ho conosciuta bene nell'arco della lavorazione del film. Okay. Però è una di quelle figure che nel mio immaginario esiste da 20 anni, perché è sempre stata presente ad ogni commemorazione e non solo. Però è stato bello farle quell'intervista, è stato un momento di conoscenza reciproca importante. È stato bello poi per noi averla a fianco magari in tante presentazioni, ovviamente non in tutte, ma ci mancherebbe. Racconto solo l'aneddoto di settembre, quando siamo stati insieme ad Atene al festival del cinema, Solidarity Film Festival, dedicato a Pavlos. È venuta lei insieme con Stefania, la mamma di Renato Biagetti, con cui è in ottimi rapporti, e comunque una donna che tuttora era a Rozzano il 17 alla presentazione del film settimana scorsa. Cioè, è una donna che davvero ha costruito, come si dice nel film, un punto di riferimento per tante persone, per noi, ed è un noi esteso, no? Nel senso, per noi come comunità di antifascisti a Milano, con la sua semplicità, col suo linguaggio mai retorico, che poi è una cosa, insomma, è potentissima, no? Riuscire a trasmettere quelle idee però uscendo dalla retorica, molto spesso a noi come compagni e compagne viene naturale nel dire le cose, invece lei non è mai scontata, no? Nelle affermazioni, e questo, giustamente, l'hai detto tu. Si evince. È potentissimo anche da un punto di vista emotivo nel film. Pazzesco. E ci sentiamo un pezzo, andiamo con le 99 posse e torniamo qui. Cioè non ce ne andiamo, ce li sentiamo, ma siamo sempre qua insieme a voi. Quando era piccolino papà, tutta la gente onesta e timorata, con lui non ci volevo parlare e se ne allontanava schifata. Papà non era brutto però, studiava tra i borghesi più in vista, per loro ero culero perché papà era un convinto comunista. Sono passati 30 anni e più e oggi pure un nulla tenente non è più comunista perché non è più moda, non è più trend, ma il trend informazione lo fa e siamo tutti quanti borghesi, borghesi un poco maso perché ci piace a buscare fino a Roma. Sono comunista totalmente fuori moda, sono comunista perché sto lingua vuota, totalmente fuori moda e talmente comunista. Te ne vorresti andare in pensione, inventati un suicidio chic e butta giù anche tu l'inflazione. E poi c'è la flessibilità, la nuova moda a tutti ormai nota, che ci divide tutti a metà, chi muore fame e chi va in Europa. Se non ti senti meno che ho trend, non andrai mica all'ospedale a gravare un doppio spalle la gente, al loro verrà tutto può fa male. Sì, disoccupato lo trend, è meglio piccolo imprenditore, compartiti in anime con Windy. E manca sorda per l'ascensore. Sono comunista totalmente fuori moda, sono comunista perché sto lingua vuota, totalmente fuori moda e talmente comunista. E balloni. Io sono comunista totalmente fuori moda, sono comunista perché sto lingua vuota, totalmente fuori moda e talmente comunista. E balloni. La magica globalizzazione non solo si mette potente, ma si pure in via d'estinzione. Perché quando il compagno Marx si portava ancora non male, il nemico del popolo era il padrone ed il capitale. Ma adesso che non va più e lo stato sociale è finito, il nemico del povero è il più povero e così all'infinito. Il più povero e così all'infinito. Il più povero e così all'infinito. Sono comunista perché sto lingua vuota, totalmente fuori moda e talmente comunista. E balloni. Io sono comunista totalmente fuori moda, sono comunista perché sto lingua vuota, totalmente fuori moda e talmente comunista. E balloni. Io sono comunista totalmente fuori moda, sono comunista perché sto lingua vuota, totalmente fuori moda e talmente comunista. E balloni. Io sono comunista totalmente fuori moda, sono comunista perché sto lingua vuota, totalmente fuori moda e talmente comunista. Che ballo il twist. Come un twist, nome nome posse su Radio Antidoto. E siamo ancora in compagnia di Paolo che ci racconta cosa è successo oggi, cosa succede nella proiezione del film e cosa andrà a portare anche a Catania e negli altri posti. Quali sono le prossime date? Perché noi di Radio Antidoto siamo sparsi per il mondo, Italia, e ci interessa sapere anche perché parte del nostro staff è a Bruxelles o a Amsterdam, quindi possono vedere il film, diciamo, facilmente. Allora, come ricordavi tu, domani, sabato 23, saremo a Catania, Palestra Lupo, per questa seconda tappa del mini tour in Sicilia. E poi settimana prossima c'è invece una doppia trasferta, saremo a Giulianova e a Teramo, rispettivamente al campetto occupato di Giulianova e a Casa del Popolo di Teramo. Anche questi sono luoghi con cui l'associazione DAX ha costruito nel tempo dei legami storici, per cui ci fa molto piacere essere anche lì. Andando poi ad aprile, tu ricordavi Bruxelles, e ci sarà il 7 di aprile la prima presentazione anche nella capitale belga. Era da un po' di tempo che stavamo lavorando a questa data, perché non siamo mai stati, insomma. Comunque, una storia e un film, un progetto che hanno un respiro europeo anche per come si sono svolti i fatti nella storia, ormai possiamo dirlo, perché è storia scritta nero su bianco quello che è successo. Sì, anche per questo discorso dobbiamo dare merito all'associazione DAX, ai compagni e alle compagne DAX, di aver lavorato da subito alla costruzione dei legami con delle comunità che in giro in Europa avevano vissuto la loro stessa storia. Per cui quando viene ucciso Carlos Palomino a Madrid, sono i primi a volare a Madrid. Quando viene ucciso Clemana a Parigi, vanno a Parigi. Quando viene ucciso Pavlos ad Atene, vanno ad Atene. E questa cosa rimane poi nel cuore delle persone, chiaramente, per l'eternità. E quindi quando l'anno scorso è uscito il film, subito tutte queste persone, tutte queste comunità si sono attivate per convocarci e poter presentare il film. Questo è il primo fatto. Il secondo discorso che ha reso il film un progetto europeo è stato il fatto che il ventennale del 2023, cioè le giornate di marzo del 2023 a Milano, avevano una vocazione europea. Quindi chi è venuto a Milano dal resto dell'Europa e ha visto il film il 16 marzo in piazza, quando poi è tornato nel proprio paese, nella propria città d'origine, ha naturalmente sviluppato la volontà di organizzare una proiezione. E su questo mi sento davvero di ringraziare tutti coloro che si sono adoperati per la traduzione, perché oggi è un film che è tradotto in 6 lingue. E questa cosa è, tornando a una cosa che abbiamo detto in apertura oggi, è sempre frutto di lavoro volontario, di sbattimenti dal basso, quindi tradotto in spagnolo, tradotto in greco, tradotto in inglese, tradotto in tedesco, tradotto in francese, tradotto in bulgaro. Cioè sono cose che uno non può dare per scontate, succedono perché la gente ci crede. Se vuoi noi te lo possiamo tradurre in siciliano, per esempio. Comunque, verso la fine del film, anzi alla fine del film, si parla di fascismo e si dice che il fascismo ha cambiato forma e non sono più i 2000 pazzi, chiamiamoli pazzi, criminali che ti cercano per strada, ti aggirano, possono essere 3 per città. Ma secondo te che cosa sta diventando il fascismo? Come si vede, come si può riconoscere, come si può combattere soprattutto? Lo so che è una domanda difficilissima da 100 milioni di dollari, però cioè, se hai un'idea, non... Secondo me dipende tanto da qual è il perimetro esatto che noi prendiamo in esame. Sicuramente su scala europea ci sono dei segnali preoccupanti di ritorno, parecchio, esatto, di formazioni di estrema destra che ormai permeano le istituzioni, governano gli stati e in paesi anche che hanno veramente poco a che vedere con una tradizione di questo tipo, vedi la Spagna, vedi la Grecia, che sembrava, insomma, hanno una storia di antifascismo più recente della nostra, no? Perché comunque sono usciti da dittature in epoche più recenti di quanto non lo siamo, sì, stati noi, per cui in linea teorica dovrebbero aver sviluppato degli anticorpi più solidi quanti non siano i nostri. E questo è un tema. In Italia sappiamo chi oggi governa il paese. Quello che ci chiedono molto spesso nel resto d'Europa e cosa pensiamo noi della Meloni al governo, è il fascismo al governo, come si manifesta questo fascismo. Noi diamo questa risposta che ad oggi credo sia valida. Il fascismo governativo di oggi non differisce molto in termini di materia economica e sociale dai governi tecnici che abbiamo avuto negli anni passati. Si differenzia in maniera più incisiva per la propria matrice culturale revisionista e repressiva. Questi due fattori li viviamo sulla nostra pelle, soprattutto il secondo, quello della repressione, cioè un tentativo di colpire, marginalizzare chi si batte a 360 gradi. Chi non fa il compitino, chi dà una mano. Esatto, dal sindacalismo di base a chi occupa gli spazi, a chi porta avanti, a chi occupa le scuole, cioè nel senso delle pratiche che dentro legittime, con le quali siamo cresciuti tutti e che fanno parte del nostro DNA politico, oggi vengono trattate appunto alla stregua di un crimine comune, e questa cosa segna, demarca una discontinuità rispetto al passato. Come rimettersi in gioco? C'è un po' il tema di tutti quelli che magari oggi non hanno una posizione molto chiara su questa vicenda. E lo sforzo che probabilmente come compagni e compagne del movimento potremmo fare è quello di sicuramente tornare a interagire con quelle che un tempo venivano definite classi subalterne, classi popolari, e che oggi non vanno a votare o che strizzano l'occhio alla destra, e contendere il campo al fascismo o al populismo lì, in queste zone. Solo così possiamo tornare a ricostituire una massa critica, un argine, insomma. Ma secondo te il documentario ve lo faranno proiettare nelle scuole, ve lo faranno trasmettere nelle scuole? Questo era uno degli possibili obiettivi iniziali, e però se vogliamo appunto vedere quali sono i margini di miglioramento, dobbiamo ammettere che non è un campo su cui noi abbiamo fatto un investimento specifico, che andrebbe un po' preparato, studiato, progettato, perché poter entrare nelle scuole vuol dire insomma un po' presentarsi. Però sarebbe importante. Sarebbe importante. È successo, ma è successo in una maniera che possiamo definire marginale, casuale, come qualche autogestione, qualche occupazione. In maniera strutturata e sistematica io penso possa essere una seconda vita, insomma, di questo documentario. Magari quando avremo finito questo ciclo di presentazione un po' in giro, riuscire a concentrarci quantomeno sulla città di Milano. Sarebbe importante. Pablo, sei libero. Grazie mille davvero a voi, alla radio, e speriamo di rivederci presto. Noi ringraziamo qui a Messina. Te. Speriamo anche a Bruxelles vi potete vedere, sarebbe bellissimo. Okay. Grazie. Ciao. E noi ci sentiamo un pezzo e poi sentiamo il Big Capoccia della Casa del Popolo. Non ce n'è capoccia, però tu c'hai una capoccia gigante. Il Big Capoccia Ivan Calì. Ora ci sentiamo gli Assalti Frontali. D'oro ce l'avevo, ma l'ho dato tutto ai bisognosi. Adesso c'è la nuova guerra che nessuno si riposa, il cuore batte nella notte, pieno di emozioni. Siamo divisi grandi e piccole fazioni. Io sto coi poveri e mi guardo nelle tasche vuote. Tutti vogliono soldi, da me un tuono mi scuote. Li cerco in giro, organizzo il contrattacco. Devo migliorarmi in questa notte di bivacco. Mi vieni in mente tu che dici lotta che sei in gamba. Mi ci sento, lo divento, tengo su una banda. Mi dici più ti chiudono, più tieni il sogno aperto. Non devi dirmi altro, ne sono ricoperto. Tiro fuori dalle tasche le mie mani e so che faccio. Sa l'età che ho ancora il mitra in braccio. Contro gli arricchiti sulla notte nostra pelle i vampiri. Sembra la fine del mondo, ma è la fine dei sospiri. Io non ho paura di voi. Ho bisogno di, ho bisogno di. Io non ho paura di voi, di voi. Se mi trovo emarginato e mi guardo alle spalle, sento il mio cuore che rimbomba nella valle. Dice, io sono libero. E allora, che ci avete tutti? I modelli da seguire sono solo dei trucchi. È un modo da amarci per davvero chi ce l'ha, di costruire un mondo meno triste e di complicità. Con un gesto, una carezza, e perché no? Bisogna essere felici nella vita se si può. Nella vita si dimentica, più che si ricorda. Prova a sentirti come una bambina sorda. Tutti parlano e parlano, intorno e di cosa? Non capiscono che lei è la perla più meravigliosa. Ogni problema è un'occasione. Quanta ricchezza crea un gesto di inclusione. Io ti difenderò per sempre dagli incompetenti. Voi non siete dei baroni, siete solo dei pezzenti. Io non ho paura di voi. Ho bisogno di, ho bisogno di. Io non ho paura di voi, di voi. Io non ho paura di voi. E se finisco in un buco freddo che chiamano cella, posso sentirti dirmi calma che la vita è bella. Può capitare di finire in gattabuia, può capitare che la notte sia più lunga e buia. Capita a chi cammina per il mondo dritto, davanti all'ingiustizia è inevitabile il conflitto. Quello è un posto fatto apposta per farti sentire solo. Tu non sei solo, non sei solo. Adesso il cuore è più leggero, ne so il motivo. È il bisogno di risollevarci in modo collettivo che ci guida. Io amo questa vita insieme agli ultimi, ma non siamo proprio gli ultimi. Qualcosa lo sappiamo fare senza tante scene. Lo insegniamo a vivere senza catene. Piano, piano, si diventa bravi a scegliere armi giuste per non essere mai schiavi. Io non ho paura di voi. Ho bisogno di, ho bisogno di. Io non ho paura di voi, di voi. Io non ho paura di voi, di voi. Peace, voi non mi fate paura, la mia vita è più dura. Non mi fate paura, voi siete inganno e tortura. Ma non mi fate paura, non mi fate paura. Noi siamo letteratura. La fine dei sospiri, Beirut Remix, Assalti Frontali insieme a Eman Schumann. E, buonasera, padrone di casa. Uno dei, non padrone. Non padrone. Uno dei frequentanti del posto. Accommodation. Uno dei frequentanti del posto. Accommodation, grazie. E, per lo specifica, grazie. E, come stai intanto, Ivan? Ivan Calì al microfono. Boh, bella, prende bene. Non mi aspettavo di fare un'intervista alla radio in questo momento, ma sono contento che facciamo una trasmissione radio da qua. Era da un po' che ci pensavamo. È una figata. E sono, sì, belle storie. Dovremmo farlo più spesso, probabilmente. E che cos'è la Casa del Popolo? Come nasce e come si struttura sul territorio? Ok, che cos'è? Non lo so. Ti dico una risposta seria. È una cosa che proviamo a fare perché per tanti anni, da quando non ci sono più occupazioni, perché poi quello è il grande senso di smarrimento che abbiamo da quando non ci sono più fatte occupazioni, ci sentiamo orfani di una storia che però vogliamo che venga portata avanti. Quindi in qualche modo abbiamo provato qua a costruire un rifugio sicuro per chi vuole lottare. E speriamo di far ripartire la lotta, non da qui, non penso che ripartirà da qui, ma che sia uno dei motori che la possa spingere. Un, diciamo, non un cervello, non un braccio, non una gamba, ma un defibrillatore. Un defibrillatore, una piccola iniezione, sì. Non un teaser, un defibrillatore, sì. Perché teaser non ne vogliamo vedere. Speriamo, sì, un po' di pace, che ti permette di pensare a come riorganizzare la lotta. Abbiamo visto... purtroppo anche oggi, no? Abbiamo subito tante sconfitte, ne paghiamo ancora il prezzo, però ci proviamo, insomma, questo è un posto per riprovarci. Ci proviamo, ci lottiamo più che ci proviamo. Ci riusciamo a volte. È sempre giusto così. Quali sono le iniziative che portate avanti più delle volte? Anche io le so personalmente, perché sono su tutti i canali Telegram che potrete trovare cercando la Casa del Popolo di Messina, e anche su Instagram e anche su Facebook ci siete. Io non ce l'ho Facebook. Su Facebook ci siamo, sì, ma spingiamo ovviamente più Instagram, più Telegram. Che mi sembrano sì. I social, i messaggistica istantanea e social più simpatici. E, a parte che siete su questi canali, che cosa... Dicevamo le iniziative, sì. Allora, sì. Qua le cose che facciamo principalmente, oltre a fungere da punto di aggregazione per fare attività culturali, come quella di stasera, come presentazioni di libri, diciamo il punto di appoggio per chi fa delle operazioni politiche di vario tipo, da Non Una di Meno a Unione Inquilini con la lotta per la casa, quindi in questo momento ancora, siccome è un progetto acerbo, ancora non si è intestata una lotta che dice riconoscibile come la Casa del Popolo, si è intestata questa lotta, ma è quel punto dove appunto stiamo organizzando una serie di lotte che dove però si riuniscono diciamo diverse realtà del territorio. Esatto, e le singolarità, le individualità che si riconoscono in determinati valori e quindi poi aderiscono volentieri alle varie manifestazioni che si sviluppano, anche il movimento No Ponte, insomma le manifestazioni sicuramente il movimento No Ponte, che è fondamentale, parte integrante della città, e meno male che c'è, meno male, sarebbe male se non ci fosse. E detto questo, parliamo del ponte, parliamo del ponte. Ci dobbiamo rassegnare o possiamo lottare? Abbiamo margini di manovra? No, se ci dovessimo rassegnare sarebbe meglio appunto che stessimo a casa e non facessimo più nulla. Le compagne e i compagni l'altro giorno al municipio hanno fatto una grande operazione di disturbo, quando siamo stati a contestare Salvini è stato altrettanto potente, anche poche cavernicole come siamo stati definite. Vabbè, poi possono provocare sufficiente rumore però per rompere una narrazione che se no dà il ponte come una cosa scontata per spezzare. Sì, altrimenti il ponte è quella narrazione che non puoi superare, perché si farà, non ci puoi fare nulla, è l'unico progetto di sviluppo per questa terra. Il cosiddetto volano. Noi siamo contrari all'idea dei volani anche in sindacalmente generale. Ci sono chi qua fa anche sindacato, non ci rende conto, il lavoro non lo produci così, che tipo di lavoro è, non ci interessa, ci interessa che si stia bene, che si sviluppi la terra, non i ponti, si sviluppino, cioè, le persone, il di dall'Africa alla Sicilia, non dalla Sicilia alla Calabria, non perché non vogliamo stare lontani dalla Calabria, ma perché cioè che si facesse accoglienza e altri tipi di che ci fossero anche progetti di sviluppo veri per questo posto, cioè non estraggo valore da questa terra in maniera così brutale. Comunque questo è un discorso che merita forse una puntata apposita, una radio apposta, forse una radio apposta, anche perché loro hanno, ecco questo è un dato che vi do così importante, arriveranno diversi milioni di euro per pagare i giornali, cioè la società Stretto di Messina paga i giornali per fare proselitismo e propaganda, fa parte proprio del PNRR i fondi che vengono dati. Si chiama Editoria Italiana, se Editoria Italiana, che anche chi ci lavora spesso viene sfruttato. E ci sentiamo questo. Un pezzo di Moschella, giusto che è cambiato un po' il mood, siamo passati da Dax alla Casa del Popolo, dai. E Moschella insieme a circa un sacco di altri rapper messinesi, Ovunque Andrai, Vox Populi. D'asilo, scoprire le usanze degli altri paesi, star fuori due mesi e tornare arricchito, restare nel nido dove mi sento protetto e accudito, sentire il dialetto, poi becco un amico che se n'è partito, ma ancora l'affetto e il rispetto infinito. stare a guardare le stelle, le notti più belle, ricchezze ne abbiamo, forse non sappiamo tenerle, il mare che vogliamo senza trivelle, con le costardelle come ha detto Emilio, sti massi di sassi, ste perle che metto in un filo, ti do un braccialetto così quando parti potrai ricordarti di Guido. È la storia di Alessandro, giovane meridionale, laureato ma disoccupato in cerca di un lavoro, altrove costretto a emigrare, pensa e ripensa, al posto in cui è nato, su una nave in partenza, guarda un mare incantato, ama la sua terra, non se ne vergogna, sa che partendo lascerà lei, insieme alla sua donna, qualche capo firmato, dentro un bagaglio a mano, ma qualcosa scordato, è il cuore che non ha portato. La gente va via, lascia il sole, il mare, la marijuana, ma il cuore no, no, no, il cuore no, yeah, yeah, yeah, yeah, il cuore no. Yeah. Minchia che bella che sì, dopo tanti anni di vita, mi lamentava il figliolo, battia con battello, giovo matteggio, passano anni così. Ora tu nai, già qua c'aranci munnai, gli ultimi giorni e passa mezza stu mari, stu cielo, sti monti. Voglio morire qua dove il sole riscalda le persone. Ancora mi chiedo come ho fatto ad andare via e come fare un patto con la malinconia. Adesso il cuore respira, il corpo si nutre dell'energia. L'anima mia è viva, resto qui, dove di notte la spiaggia resta calda. E la mia donna non si raffredda mai. Fuori da qui la gente non si scorda che Sicilia resta Sicilia ovunque andrai. Ovunque andrai. Amare la mia fede come amare la donna che t'ha tradito, è un amore amaro, quindi vogliamo scappare e tornare con un sorriso. Non porto rancore, la porto nel cuore, città baciata dal sole, che ha tutto ma perde tutto perché va soltanto a parole. E piangono lacrime amare, sapore di sale, lo sento, riempio nel mare che dopo l'inverno ti sappia cullare come dentro il ventre materno. Sento il tempo che cambia, il vento tra i tuoi capelli, il sole si addormenta dentro la sabbia, tra i monti regala i tramonti più belli. La gente lascia il sole, il mare, la marijuana, ma il cuore no, no, no, il cuore no, yeah, yeah, yeah, yeah, il cuore no, ma people, why you leave us now, we gotta be strong. When you try to push on through, life is not easy, man, you gotta feel my tune. We are trying our best, let us live together. No place to go, just like the place you are. We are one in this place, we're living just together. We no believe, say where you go is better than where you are. Oh, yeah. Ovunque andrai, Moschella insieme a Chepone, insieme a Lume, Clima, Miroddi e tanti altri. E ragazzi, ragazze e ragazzi, perché siamo diversi ma uguali, e non firmiamo questo sodalizio, però facciamo un gentleman agreement almeno. Giusto? Certo. Vorrei invitare tutti gli speaker barra ascoltatori della radio a gemellarci con la Casa del Popolo di Messina per diverse interviste barra presentazioni di libri barra presentazioni di film, album, se qualcuno vuole spingere un po' di musica bella. Anche DJ set come Melo Stone Chaos, se vuole fare un DJ set in diretta su Radio Antidoto. Bella Melo che sei in ascolto, bella grande Melo. E questo sodalizio sta da fare, vedrete alla prossima assemblea se lo volete. Sa da fare. Diciamo che abbiamo fatto l'accordo informale, ma penso che l'assemblea. Sì, io parlerò con i miei direttori e voi parlerete con i vostri direttori. E in ogni caso, grazie per lo spazio che ci avete dato questa sera. Grazie a voi per averlo creato e per averlo riempito di contenuto e di presa bene. È stato molto bello, è stato molto bello tutto stasera, ma ogni sera devo dire che sono venuto qua, mi sono emozionato, non come stasera di più, ma mi sono emozionato anche le altre volte. Mi manca Roberto Aronica, devo dirlo. Ci manca, lo possiamo dire. Devo dirlo fortissimo. E se sei all'ascolto, Roberto, sta casa aspetta a te. E va bene, per me abbiamo finito qua. Damiano, hai domande? Però saluta gli ascoltatori. Tanti saluti e tanti ringraziamenti a tutti quelli che sono intervenuti stasera e agli ascoltatori. Grazie mille Damiano, grazie mille Ivan. Grazie a te. Ciao. Grazie Radio Antidoto. Siete bellissimi e noi ci risentiamo dopo questa canzone che mi è capitata sotto mano e non posso esimermi dal passare, perché è la canzone preferita di mio fratello Damiano, per salutarvi. Quindi un attimo. Ciao ragazzi, Brigantoni, mi stuppa una fanta. Allo, Zarosita, dai che bella sta pizzeria. Vedi che stasera ti faccio fare una pizza speciale, mi raccomando, non farò solo totò, mangiatela tutta e non mi farò fare male a comparsa. Attenzione, la pizzeria San Malik è raputa. Abbiamo i funghi freschi dell'Africa. Arrivi in Cile.